Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Dal momento in cui Alexei Alexandrovich comprese dalle spiegazioni con Betsy e con Stepan Arkadich che a lui si chiedeva soltanto che liberasse della sua presenza sua moglie e che sua moglie stessa desiderava questo, egli si sentì smarrito, incapace di decidere qualunque cosa da solo. Così, non sapendo nemmeno lui che cosa ora volesse, si abbandonò nelle mani di coloro che con tanto piacere si occupavano dei suoi affari. A tutto prese a rispondere con un consenso. Soltanto quando Anna ebbe lasciata la casa e l'inglese gli fece chiedere se doveva pranzare con lui o separatamente, per la prima volta capì chiaramente la propria situazione e ne ebbe orrore. La cosa più difficile in quella situazione era che lui non poteva in alcun modo collegare e conciliare il proprio passato con ciò che adesso era. Non lo sconcertava il passato in cui era vissuto felice con la moglie. Aveva già vissuto dolorosamente il passaggio da quel passato alla cognizione dell'infedeltà della moglie. Questa situazione era penosa, ma gli era comprensibile. Se la moglie fosse andata via da lui allora, dopo avergli dichiarato la propria infedeltà, sarebbe stato amareggiato, infelice, ma non si sarebbe trovato nella situazione senza via d'uscita e per lui stesso incomprensibile in cui si sentiva ora. Adesso non poteva in alcun modo conciliare il proprio recente perdono, la propria commozione, il proprio amore per la moglie malata e per la bambina altrui con ciò che accadeva ora. Cioè con il fatto che, come a ricompensa di tutto questo, lui ora si ritrovava solo, svergognato, deriso, a nessuno necessario e disprezzato da tutti. Sentiva che non poteva allontanare da sé il disprezzo della gente, perché quel disprezzo non derivava dal fatto che egli fosse cattivo, in questo caso avrebbe potuto sforzarsi di essere migliore, ma dal fatto che lui era infelice in modo vergognoso e ripugnante. Sapeva che per questo, per il fatto stesso che il suo cuore era dilaniato, loro sarebbero stati spietati nei suoi confronti. Sentiva che la gente lo avrebbe annientato come i cani dilaniano un cane ferito che guaisce dal dolore. Sapeva che l'unica salvezza dalla gente stava nel nascondere le sue ferite, e questo aveva inconsciamente tentato di fare per 2 giorni, ma adesso non si sentiva più le forze di continuare questa impari lotta. La sua disperazione era cresciuta dalla consapevolezza di essere assolutamente solo con il suo dolore. Non soltanto non aveva a Pietroburgo una sola persona alla quale potesse dire ciò che provava, che potesse compatirlo non come alto funzionario, non come membro della società, ma semplicemente come un uomo che soffriva. Una persona simile non l'aveva in alcun luogo. L'attaccamento che provava per Anna aveva escluso nella sua anima il residuo bisogno di avere rapporti affettivi con altra gente. Così ora, fra tutti i suoi conoscenti, non ne aveva uno che gli fosse intimo. C'erano molte di quelle che si chiamano conoscenze, ma non c'erano rapporti d'amicizia. Alexei Alexandrovich aveva molte persone che poteva invitare a casa, a pranzo, cui poteva chiedere simpatia in un affare che lo interessava, una raccomandazione per qualche postulante, con cui poteva sinceramente discutere le azioni di altre persone e del governo supremo, ma i rapporti con queste persone erano contenuti in un campo solo, fermamente definito dall'uso e dall'abitudine. Alle sue amicizie femminili e alla primissima fra esse, la contessa Lidia Ivanovna, Alexei Alexandrovich non pensava. Tutte le donne, semplicemente in quanto donne, erano per lui terribili e nemiche. Thank you. Alexei Alexandrovich si era dimenticato della contessa Lidia Ivanovna, ma lei non si era dimenticata di lui. Proprio in quel penoso momento di disperazione solitaria, essa venne da lui ed entrò nel suo studio senza farsi annunciare. Lo trovò nella stessa posizione in cui s'era messo a sedere, con la testa appoggiata su tutte e due le mani. «Je forse la consigne», disse entrando a passi veloci e respirando affannosamente per l'agitazione e il movimento rapido. «Ho sentito tutto, Alexei Alexandrovich, amico mio!» Continuò stringendo forte con tutte e due le mani la mano di lui e guardandolo negli occhi con i suoi stupendi occhi pensierosi. Alexei Alexandrovich si alzò, aggrottando le sopracciglia, e liberando la mano dalla stretta di lei, le avvicinò una sedia. «Volete favorire, contessa? Io non ricevo perché sono malato, contessa», disse, e le sue labbra tremarono. «Amico mio», ripeté la contessa Lidia Ivanovna senza distogliere da lui gli occhi, e a un tratto le sue sopracciglia si sollevarono con le estremità interne, formando un triangolo sulla fronte. Il suo brutto viso giallo diventò ancora più brutto. Ma Alexei Alexandrovich sentì che lei lo compativa ed era sul punto di piangere. E la commozione lo prese. Afferrò la mano paffuta della contessa e cominciò a baciarla. «Amico mio», disse lei con voce spezzata dall'emozione, «voi non dovete abbandonarvi al dolore. Il vostro dolore è grande, ma voi dovete trovare una consolazione. Sono distrutto, sono ucciso, non sono più un uomo», disse Alexei Alexandrovich, lasciando la mano di lei, ma continuando a guardarla negli occhi pieni di lacrime. «La mia situazione è orribile, perché non trovo in nessun posto, nemmeno in me stesso, un punto d'appoggio. Le forze umane hanno dei limiti, contessa, e io ho trovato il limite delle mie. Oggi, per tutto il giorno, ho dovuto dare disposizioni per la casa derivanti...» calcò sulla parola «derivanti» «dalla mia nuova solitaria situazione. La servitù, la governante, i conti... questo piccolo fuoco mi ha bruciato, non avevo la forza di resistere. A pranzo, per poco, ieri non sono fuggito da tavola. Non potevo sopportare il modo in cui mi guardava mio figlio. Lui non mi domandava il significato di tutto questo, ma voleva domandarlo, e io non potevo resistere a quello sguardo». «Capisco, amico mio», disse la contessa Lidia Ivanovna. «Io capisco tutto. Non in me troverete aiuto e consolazione, ma sono venuta lo stesso per aiutarvi, se posso. Se potessi togliervi tutte queste meschine preoccupazioni umilianti... Capisco, c'è bisogno di una parola femminile, di una guida femminile. Date l'incarico a me?» Alexei Alexandrovich le strinse la mano in silenzio e con gratitudine. «Ci occuperemo insieme», disse Ryosha. «Io non sono forte nelle cose pratiche, ma mi ci metterò. Sarò la vostra governante. Non ringraziatemi, non lo faccio da sola. Non posso non ringraziarvi, madame». Spring. so frail. In the cold of the night, when the armies of emotion go out to fight, but while the earth sinks to its grave, you sail to the sky on the crest of a wave. So forget this cruel world where I belong. I'll just sit and wait and sing my song. And if one day you should see me lend a hand and lift me to your place in the La contessa Lidia Ivanovna mantenne la sua promessa. Si assunse effettivamente tutte le cure dell'organizzazione e della direzione della casa di Alexei Alexandrovich. Ma non aveva esagerato dicendo di non essere forte nelle cose pratiche. Le sue disposizioni si dovevano sempre cambiare perché erano irrealizzabili e venivano cambiate da Cornei, il maggiordomo di Alexei Alexandrovich, che ora, senza che nessuno se ne rendesse conto, dirigeva la casa di Karenin e, mentre il padrone si vestiva, gli riferiva con calma e prudenza tutto quello che occorreva. Ma l'aiuto di Lidia Ivanovna fu comunque in sommo grado efficace. Essa diede ad Alexei Alexandrovich un appoggio morale con l'affetto e la stima che aveva per lui. Inoltre le piaceva pensare di averlo quasi convertito al cristianesimo, ossia di averlo trasformato da credente indifferente e pigro in un ardente e fermo sostenitore di quella nuova interpretazione della dottrina cristiana che negli ultimi tempi era di moda a Pietroburgo. Già da vari giorni la contessa Lidia Ivanovna si trovava in grandissima agitazione. Aveva saputo che Anna e Vronsky erano a Pietroburgo. Bisognava salvare Alexei Alexandrovich da un incontro con lei, salvarlo dalla tormentosa consapevolezza che quell'orribile donna si trovava nella stessa città e che avrebbe potuto incontrarla ad ogni passo. Attraverso i suoi conoscenti, Lidia Ivanovna si informava sui movimenti di quelle persone ripugnanti, come lei definiva Anna e Vronsky, e cercava in quei giorni di fare in modo che il suo amico andasse dove gli fosse impossibile incontrarli. Il giovane aiutante di campo, amico di Vronsky, attraverso il quale lei riceveva le informazioni e che a sua volta, attraverso la contessa Lidia Ivanovna, sperava di ricevere una promozione, le disse che loro avevano terminato i propri affari e partivano il giorno dopo. Lidia Ivanovna aveva già cominciato a calmarsi quando proprio la mattina dopo le portarono un biglietto di cui riconobbe con orrore la scrittura. Era la scrittura di Anna Karenina. La busta era d'una carta grossa come corteccia d'albero. Sulla carta gialla oblunga c'era un enorme monogramma e la lettera emanava un magnifico profumo. Chi l'ha portata? Un commesso d'albergo. La contessa Lidia Ivanovna per un pezzo non poté mettersi a sedere per leggere la lettera. Per l'agitazione le venne un attacco d'asma cui andava soggetta. Quando si calmò, lesse la seguente lettera in francese. «Madame la Comtesse, i sentimenti cristiani che riempiono il vostro cuore mi danno l'ardire che so imperdonabile di scrivervi. Sono infelice per la separazione da mio figlio. Vi supplico di permettermi di vederlo anche solo una volta prima della mia partenza. Perdonatemi se mi rivolgo a voi e non ad Alexei Alexandrovich, solo perché non voglio far soffrire quell'uomo magnanimo ricordandomi a lui. Conoscendo la vostra amicizia per lui, voi mi capirete. Manderete Seriosha da me o devo venire io a casa a una data ora o mi farete sapere voi quando e dove potrò vederlo fuori di casa. Non penso ad un rifiuto conoscendo la magnanimità di colui dal quale ciò dipende. Non potete immaginare il desiderio che ho di vederlo né potete immaginare la gratitudine che il vostro aiuto desterà in me. Anna». Tutto in questa lettera irritò la contessa Lidia Ivanovna e il contenuto e l'allusione alla magnanimità e in particolare il tono, così le sembrava, disinvolto. «Di che non c'è risposta», disse la contessa Lidia Ivanovna e immediatamente, aperta una cartella, scrisse ad Alexei Alexandrovich. «Ho bisogno di parlare con voi di una cosa importante e triste. Fisseremo il luogo dove poter parlare in libertà, meglio di tutto da me, dove farò preparare il vostro tè. Ciò è indispensabile». Uno degli scopi del viaggio in Russia era per Anna l'incontro con il figlio. Dal giorno in cui era partita dall'Italia, il pensiero di questo incontro non aveva smesso di agitarla. E quanto più si avvicinava a Pietroburgo, tanto più grande le apparivano la gioia e l'importanza di questo incontro. Non si domandava come combinare l'incontro. Le sembrava naturale e semplice vedere il figlio quando fosse stata nella stessa città dove era lui. Ma all'arrivo a Pietroburgo, di colpo le apparve chiara la sua situazione di adesso nella società e capì che combinare l'incontro era difficile. Era a Pietroburgo già da 2 giorni. Il pensiero del figlio non l'abbandonava neppure per un momento. Eppure non aveva ancora visto il figlio. Sentiva di non avere il diritto di andare senz'altro in casa dove poteva incontrare Alexei Alexandrovich. Potevano non lasciarla entrare e offenderla. Anche soltanto pensare di scrivere e mettersi in rapporti con il marito le riusciva tormentoso. Poteva essere calma solamente quando non pensava al marito. Vedere il figlio durante la passeggiata, dopo aver saputo dove andava e quando, per lei era poco. Si era così preparata a questo incontro, aveva bisogno di dirgli tante cose, aveva tanta voglia di abbracciarlo e di baciarlo. La vecchia gnagna di Seriosa avrebbe potuto aiutarla e istruirla, ma la gnagna non era più in casa di Alexei Alexandrovich. In queste esitazioni e nella ricerca della gnagna erano passati 2 giorni. Avendo saputo degli stretti rapporti di Alexei Alexandrovich con la contessa Lidia Ivanovna, il terzo giorno Anna si risolse a scrivere una lettera che le costò grande fatica e nella quale diceva intenzionalmente che il permesso di vedere il figlio doveva dipendere dalla magnanimità del marito. Sapeva che se avessero mostrato la lettera al marito, continuando la sua parte di magnanimità, lui non le avrebbe opposto un rifiuto. Il fattorino che aveva portato la lettera le trasmise la risposta per lei più crudele e inaspettata, che non vi era risposta. Mai si era sentita così umiliata come nel momento in cui, chiamato il fattorino, aveva sentito da lui il racconto particolareggiato di come aveva atteso e di come poi gli avevano detto «non ci sarà nessuna risposta». Anna si sentiva umiliata, offesa, ma vedeva che dal suo punto di vista la contessa Lidia Ivanovna aveva ragione. Il suo dolore era tanto più forte in quanto era solitario. Non poteva e non voleva farne partecipe Vronsky. Sapeva che a lui, benché fosse la causa principale della sua infelicità, la questione dell'incontro con il figlio sarebbe sembrata la cosa meno importante. Sapeva che lui non sarebbe mai stato in grado di comprendere tutta la profondità del suo dolore. Sapeva che lei lo avrebbe odiato per il tono freddo che lui avrebbe opposto nel sentire accennare alla cosa. E di questo aveva paura, più di ogni cosa al mondo. Perciò gli nascondeva tutto quello che riguardava il figlio. Andò in un negozio di giocattoli, acquistò dei giocattoli e meditò il piano d'azione. Ci sarebbe andata di mattina presto, alle 8, quando di sicuro Alexei Alexandrovich non si era ancora alzato. Avrebbe avuto in mano dei soldi che avrebbe dato al portiere e al domestico affinché la facessero entrare. E senza sollevare il velo, avrebbe detto che veniva da parte del padrino di Seriosa a fargli auguri e che aveva l'incarico di mettere i giocattoli accanto al letto del figlio. Non preparò soltanto le parole che avrebbe detto al figlio. Per quanto ci pensasse, non riusciva a immaginarle. Il giorno dopo, alle 8 della mattina, Anna uscì sola da una vettura di piazza e suonò all'ingresso grande della sua casa d'un tempo. Thank you.